Come ti chiami? Mi chiamo Pippi Calzelung. Pippi Calzelung? Ma è un nome che non esiste. Sì che esiste. Pesce rosso. Al pes rosso. Parassius aurautus nuota nel mare del rimosso collettivo. Ascolta e parla con tutti, ma non a bocca all'amo. Perché hai un cavallo sulla veranda? Beh, in cucina ingombrerebbe e in salotto non ci si trova bene. Cioè, i legali sono i cilia, non la persona che costituisce. Quindi è normale che questo percorso però non è una roba che si inventa da un giorno all'altro, cioè i presidi e tutto il resto focalizzano l'attenzione. La prima cosa che ho fatto è stata chiedere un accesso alla cartella clinica, che non mi viene data perché prima di me arriva la procura, essendo aperte delle indagini preliminari secretate, e quindi ho chiesto di avere una relazione sullo stato attuale del ricovero. A questo accesso agli atti, che prevede una normativa amministrativa, che è la 241 del 90, che è una legge amministrativa, chiedo l'accesso agli atti per avere un quadro clinico sulla salute. Alle 14, alle 15:27 mi rispondono non con la cartella ma con un atto di decesso. Quindi dopo un momento umano di totale costernazione ho 48 ore per diventare lucida e dire facciamolo. L'istanza di autopsia viene comunque depositata con ovviamente la procura civile e poi la saniamo con l'esposto. In questo caso una denuncia esposto, la possibilità riconosciuta a qualsiasi persona che ha notizia di un fatto di reato, quindi un qualcosa che ha una rilevanza appunto penale, di poter esporlo tecnicamente all'autorità giudiziaria competente, alla polizia giudiziaria, depositandolo o presso la polizia giudiziaria o presso la questura all'ufficio denunce querele. Quindi qualsiasi cittadino che ha notizia di un fatto di reato può decidere di esporlo per chiedere all'autorità competente di poter dare delle delucidazioni su quanto avvenuto, nei limiti ovviamente del segreto delle indagini preliminari e del penale secretato, come la legge prevede nell'inizio del procedimento penale. Cos'è successo? Che in questo caso la persona che era trattenuta al CIE era una persona ovviamente straniera, clandestina, un cittadino tunisino di 22 anni, che quando tu segui nella sua fase della detenzione amministrativa non segui con una nomina penale, perché non è una detenzione in senso stretto come al carcere, ma è una detenzione amministrativa. Quindi la tua competenza tecnica deriva da una procura speciale civile a lato del ricorso, quindi tu sei in realtà il suo avvocato civilista che applica delle norme del testo unico sull'immigrazione, il 286 del 98, il TUI così chiamato, e però ha una nomina civile meramente tale per competenza tecnica. Nel caso di specie cosa è successo? Che la persona ha ovviamente esercitato un atto di rilevanza penale, e cioè intossicarsi, o comunque assumere, diciamo, overdose. Io derivo, perché le indagini sono segrete, dal giornale una sostanza stupefacente o qualcosa di componente clinica mescolato che ha un gesto rilevante penalmente, quindi sei intossicato, e viene tradotto, trasportato all'ospedale, dove ovviamente muore dopo 10 giorni di terapia intensiva. Non ha dunque la coscienza di potermi nominare con una procura ad hoc come avvocato penale, quindi non è che da un contesto civile tu puoi derivare una procura penale, ma nel caso di specie la domanda è: come poteva questa persona incosciente nominarmi come avvocato penale ad hoc se non aveva la coscienza per poterlo fare? E quindi come facciamo a far rilevare che un fatto penale accade in un contesto civile? Come facciamo ad essere competenti per compiere tutti quegli atti che entro 48 ore come l'istanza di autopsia vanno effettuati, o per diventare avvocati di una persona offesa, in questo caso come è lui tecnicamente, o anche i genitori di lui che hanno perso un figlio, gli eredi o chiunque ci sia? Nel codice della giurisprudenza ti dicono estendi la procura perché un fatto penale deriva da un contesto civile. civile e quindi, posto che gli atti depositati verranno qualificati come illegittimi, io provo a fare un esposto che è in parte anche dovuto per gonfiare la situazione, per dire procura attenta, perché alla base di una morte per overdose ci sono sicuramente dei reati cosiddetti procedibili d'ufficio, che sono reati che vuol dire che non puoi non calcolare. Per alcuni reati serve la querela, che è una condizione di procedibilità per poter procedere. Per alcuni no, perché no? Perché sono così gravi, così importanti, per cui non serve la querela. Con la morte, l'omicidio, lo spaccio, non serve la querela, vanno d'ufficio, quindi impone alla procura di dover procedere su questi reati. E quindi l'esposto è stato depositato anche dalle avvocatesse di questo ragazzo per provare a sanare eventuali lacune di competenza tecnica, e poi abbiamo pensato di fare un esposto condiviso affinché la procura capisca che è un fatto che non può essere trattato con tutta questa irrilevanza, quindi salvare le lacune tecniche e anche politicamente attivamente muoversi per dire: i giornali parlano di tutto ma non di questo. La normativa ti dà una soluzione, che quando la persona viene meno il PM di turno nomina un curatore, che è un curatore dei suoi interessi. Ma il problema è: farà quel curatore, che non ha il mio stesso interesse come difensore, tutte quelle cose che io ritengo necessarie ai fini di tutelare quella persona, tipo un'istanza di autopsia per capire cosa ha ingerito? Non è detto. È ovvio che io sono il suo difensore e anche di un certo tipo, e voglio fare tutto il possibile per, ma per fare tutte quelle cose mi serve una nomina ad hoc. Quindi diciamo che la soluzione c'è e si intravede, ma in 48 ore il PM burocraticamente, per mille motivi, può non avere il tempo di nominare un curatore, può non venire nominato, quindi può essere una cosa che muore anche questa. E quindi l'esposto, in realtà, cosa succederà? Verrà depositato, come in ogni procedimento penale, viene affidato a un PM e a un numero, e mi auguro, visti i reati indicati, avrà lo stesso numero di quegli atti che io, che non sono un avvocato penalista ma solo civilista, non posso vedere perché non competente. E quindi mi apre la strada l'esposto a tutti quegli atti che non posso vedere perché non sono competente, perché andrà riunito con gli altri, perché è lo stesso soggetto che muore e quindi è uguale nel merito al fascicolo che non posso vedere rispetto a quello che chiedo di vedere. E quindi potrebbe essere... L'acqua, la sanità, cose, lì, il lavoro umano, sull'elemento, la frantoria, sulla lunghissima che sale in scala. Pesce rosso, al pes rosso. Thank you.